Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stolmo Rock. Sono qui, come dicevo, nella puntata precedente. Probabilmente avevo già annunciato che sarei stato in intervista e confermato ovviamente in settimana con l'annuncio appunto dei ragazzi che ho qui in collegamento tramite Instagram, che adesso ve li andrò ad annunciare, perché sono qua scalpitanti, stanno facendo delle varie battute tra chi si sta già collegando anche per la diretta di quello. Intanto una sorta di wrestling intanto mentre aspettano che effettivamente li vada a salutare. Piccola introduzione: sono la band che ultimamente underground, bene o male, è sulla bocca un po' di tutti, dopo essere riusciti ad entrare in un grandissimo festival, e quindi si sono meritati questo posto, quindi chiamati bene o male un po' ovunque adesso ultimamente. Quindi dopo andiamo a vedere anche le date che hanno in programma, ma intanto sono qui con me Paolino e Uge dei Bad Frog. Quindi ciao ragazzi, per la terza volta, come state? Ciao, tutto bene qua, alla grande. Oh, bene, intanto stavamo parlando che sono a casa dalle parti di Codogno, e quindi allo Stige, che è un pub che bene o male si adatta anche a diversi live, quindi questa è una cosa molto molto molto carina, quindi molto molto interessante anche da fare. Perché Bad Frog sono qui con me? Perché sono usciti con il loro terzo album Ho bevuto troppo poco, quindi sì. Questo gioco di parole che è divertentissimo. Per un attimo, Danilo, vai. Non è il terzo, non è il terzo, è il quinto o il sesto, è il quinto o il sesto, vai. Allora, volevamo dire che siamo attivi dal 2004, sì. Quindi abbiamo, prima che uscisse Spotify, avevamo già fatto due dischi e un demo. Ok. Che però abbiamo deciso di tenerli solo stampati, capito? In digitale non li abbiamo mai fatti uscire. Sperando che il minor gente possibile li ascoltasse. Esatto. Li abbiamo nascosti. Erano dischi di crescita. Ok, capito? Allora questa mancanza mia hai fatto benissimo a dirmelo, perché pochi lo sanno, solo qua nella nostra zona lo sanno, capito? Ah, ok. Solo i fanno più accaniti dal 2004. Ok, allora hai fatto benissimo a dirlo, quindi per i fan più accaniti giustamente hanno capito che mi ero sbagliato. Io mi sono basato un po' bene o male sulle ultime uscite che ho visto. Comunque dicevo, il sesto, quinto o sesto, perché appunto c'è anche qui c'è da capire effettivamente. Sì, non sappiamo se il primo definirlo demo o disco, capito? Che è di 8 canzoni. Beh, guarda, vedendo un po' com'è l'andazzo, il 8 canzoni secondo me si può mettere come disco. Ok. Io va te bene, lo, io allora diciamo che è il sesto, dai. Io lo passo, io lo passerei come disco. Ottimo, bello. Da oggi da oggi, guarda, ufficialmente in diretta radio, in diretta Instagram, ufficialmente sono 6 album qui di Bad Frog, quindi c'è l'ufficialità, quindi più ufficiale di così non si può. Perfetto. Comunque, tra poco andremo a parlare effettivamente del sesto album Ho bevuto troppo poco e ad ascoltarci anche qualche brano, ma prima ho una domanda introduttiva a cui non scappano, quindi immagino di cosa mi andrete a dire, perché ci avete suonato anche, quindi la mia domanda introduttiva è: cosa sono per voi NoFX? Sicuramente sono sciolti, lo sapete, ci avete suonato insieme nell'ultimo last show, quindi brevemente... Non è detto che si sono sciolti, Danilo. Dici, hai qualche indiscrezione particolare? Ti ho telefonato stanotte che là sulle 6, tipo. No, vai, sì. Vai. La domanda era cosa ne pensiamo cosa sono per voi NoFX, sì. Per noi è un'istituzione, noi siamo partiti ascoltando tutto da lì. Tutto è partito tutto da loro, fondamentalmente, da quando eravamo piccolini. Che eravamo in terza media, prima superiore, avevamo le CD masterizzati, Thanks for all the shoes. Sì. E da lì da cosa nasce cosa, NoFX e via. Ed eccoci qua, signor giudice. Bene, io qui alzo le mani, signor giudice, siamo arrivati. No, immaginavo avrei avuto una risposta di questo genere, perché ovviamente... E la maggior parte a cui l'ho chiesto effettivamente mi hanno dato questa, informazione appunto riguardo quanto riguarda il NoFX. Come dicevo, andremo effettivamente a parlare del vostro sesto album, confermato, ufficializzato oggi come sesto album, e riprendiamo la diretta effettivamente, andare a parlare con i ragazzi dei Bad Frog per quanto riguarda il loro nuovo album. Ho bevuto troppo poco. Come è saltato fuori inizialmente questo titolo? Perché bene o male l'ironia ce l'avete sempre avuta, bene o male sicuramente dagli esordi, e l'avete mantenuta comunque anche in questo disco. E questo gioco di parole sicuramente è divertentissimo per quanto mi riguarda, perché questa assonanza di ho bevuto troppo poco, in realtà poco, come è saltato fuori? Sì, eravamo poi indecisi su qualche titolo. Abbiamo deciso di scegliere quello perché volevamo dare un po' un senso diciamo al punk rock, cioè all'animo del punk rock, dei concerti punk rock, che è il pogo, diciamo, quando c'è il pogo è punk rock, cioè c'è nient'altro. Quindi, visto che già beviamo, in più ci piace il pogo, okay, capito? Siamo riusciti a mettere assieme tutto, capito? Sono arrivati anche gli altri due. Oh, vabbè, dai, intanto, intanto ragazzi, voglio metterci anche un attimo dietro, fare due gag senza problemi, non è un problema, perché avevo capito che qualcuno era partito per andare alla location del concerto di stasera, quindi invece sono ancora qua. Già, vuoi farti vedere? Sei qua apposta, c'è il giubbotto nuovo anche. Sì, nuovo, attenzione. Eccolo. Ciao, senti che tessuto, Dani, senti che tessuto. Io adesso, senti che tessuto, per me è un po' difficile, però mi fido della tua. È di Kevlar. Ah, ok, quelle robe leggere. Ciao, sì. Ciao. Comunque, niente, dicevamo, no, vai. Tutto il mio pito praticamente per questo motivo, perché ci piaceva questa assonanza qua, poi anche, cioè, ho bevuto troppo poco, non ci credeva nessuno, capito? Quindi noi abbiamo bevuto troppo poco, è l'essenza dei nostri concerti praticamente. È arrivata adesso, non ci credeva nessuno, incredibile. Perché sono quelle robe che trevo un attimo dopo, dici no, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. E infatti anche nella copertina c'è, non so se l'hai già vista, Dani. Sì. Ok, è un miscuglio generale, un pogo generale, che sul palco abbiamo fatto mettere anche un bicchiere che diciamo che prende tutto il sudore e tutta la sostanza del pogo. Infatti c'è la gente che sputa dentro il bicchiere, che ha tutta una sua proprietà, sudore del bicchiere, è sempre quel solito profumo, certo, è sempre uguale, esatto. Lì e sa di poco. Abbiamo un altro ospite. Eccolo. Vai con l'altro ospite. Eccolo. Ciao. Ciao. Beh, esattamente c'è la band al completo, però effettivamente ci si mischierà, diciamo. Però diciamo che i principali siete voi, no? Va bene. Adesso escono dietro di te anche. È certo, perché ovviamente se fai il giro vengono qui alla fine, non è che... Me li ritrovo dietro, no, va bene ragazzi, divertente come dicevo e quant'altro. Ma invece andando un attimo a parlare effettivamente del disco, prima di andarci ad ascoltare anche uno dei brani che mi avete consigliato di mettere, i diversi featuring che ci sono all'interno dell'album, no? Che c'è, vabbè, c'è Sebi, c'è Formi dei Rubber e c'è Maurizio RFC. Come li avete scelti, come sono venuti fuori questi feat? Sono venuti fuori naturalmente, ecco. Allora, Formi lo reputiamo un amico, un fratellone, una persona fantastica, ecco. Quindi sicuramente era impossibile non invitarlo. Mauri degli RFC si è formato una bellissima amicizia con lui e il pastore Antonio degli RFC, con tutti. E quindi, visto che questa canzone qua parla del mare, loro si trovano anche vicino al mare. Tra l'altro sono andato casualmente a Caserta, l'ho incontrato davanti alla Regia pochi giorni fa. Beh. E quindi abbiamo deciso di invitare anche loro e insieme per noi un'altra istituzione, ecco. Impossibile non dire così. No, certo. E sì. abbiamo chiesto se gli andava di cantare una canzone che si chiamava Rosa Pamela, quindi era perfetta per lui, era impossibile fargli scegliere un'altra canzone, e ha accettato. Bello. Mi piace un attimo questi retroscena, cioè quando scappitano spesso i featuring, una domanda che bene o male faccio praticamente sempre, perché mi fa piacere sapere un po' come sono saltati fuori questi featuring. E quasi la prima parte di Lestromore Rock è finita. Se qualcuno volesse mandare un messaggio può farlo tramite la diretta Instagram, qualcuno aveva già iniziato qualche commento e quant'altro, se no al numero qui di WhatsApp del tablet qui davanti, 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio anche solo di saluto tramite WhatsApp, come dicevo prima. Ma no, veramente. Aspetta, ho dato un numero sbagliato. No, il numero è questo, che è quello di mia sorella, quello di sua sorella, Danilo. Ah, ecco perché non arrivano i messaggi qua. C'è qualcosa di sbagliato. No, va bene, allora mi fa bello l'ironia che comunque continuate a mantenere nonostante l'età, diciamo, no? Dice una certa. Il moroso di mia sorella. È tua sorella veramente questa? Allora, ok. Fantastico. Olè, anche questa mi mancava. Un attimo, sì, sono un sacco di risate, scusate per chi sta ascoltando in diretta radio, però che sono un sacco di battute qui che ovviamente chi non sta seguendo la diretta non riesce bene a capire, però ci sarà un podcast magari forse dedicato per tutte le battute che salteranno fuori. Comunque, dicevo, copertina dedicata a quello che è l'essenza del punk, fatta da Marco Divertimenti. Che salutiamo, che stava seguendo anche la diretta. Danilo, vai. Praticamente poi nella copertina del disco è presente un riferimento a ogni pezzo del disco che abbiamo fatto. Vero? Capito? Quindi ottimo ad averlo detto. Tanti li hanno trovati i riferimenti. Sì. Quindi ovviamente voi li sapete, ma c'è un riferimento per ogni canzone. Ah, ma la figata. Io, guarda, la cosa che d'impatto leggendo i titoli pensavo che la donna al saggio e il grande Pirito fosse tipo un omaggio. Pirito? Pirito? Allora, Pirito. Pirito. Ah, Pirito. Scusa, l'accento sbagliato. Pirito. Pensavo fosse una roba tipo dedicata tipo la donna al saggio e il grande incubo, quindi agli 883. Però è un. Come si dice? Un. Scusa Dani, faccio fatica a parlare perché ho dei problemi, capito? Cioè, a livello comunicativo fra la bocca e il cervello. Vai tranquillo. È un richiamo, una parodia, si può dire. Una parodia, sì. Una distorsione del titolo. Ok, no, va bene, no, va bene. Il Pirito è la scoreggia in calabrese, si dice Pirito. Ok. Capito? Ok, vabbè, buono a saperlo, perché la storia, non so se l'hai ascoltata la canzone, è una storia, diciamo, su tipo io no, qualsiasi persona che va al mare e sei la Gotelma, noi con la amorosa fidanzata, però poi dopo c'è tutta una storia, no, e va a finire che dici, ma come mai sei venuto fino qua, capito? E poi si scopre che siamo venuti fino qua a tirare il dito del saggio del villaggio che è riuscito a liberare il grande Pirito. Capito? Poesia, praticamente, direi, no? Ecco. Va ascoltata bene, Dani, studiate a fare la prosa, ecco, come si può dire. Ok, quindi l'analisi del testo va fatto. Esatto, che non è magari... non sono magari ok, ok, non sono cose che magari arrivano d'impatto, ci bisogna ascoltarsene un attimo un pochino di più. Seconda parte di Stormo Rock, sono sempre collegato con i ragazzi dei Bad Frog, ma c'è da ufficializzare anche che sono qui e quindi lascio la parola al maestro. Prego. Ladies and gentlemen, madame e messieurs, signore e signore, per la gioia dei timpani e dell'udito di tutti voi, i grandi Bad Frog! Grazie! Fantastico! Fantastico. L'abbiamo fatta, incredibile! Guarda, meglio di così, perché sennò, sai, se lo facevi solo diretta da una parte, dopo no, devi rifarlo. Invece così è venuto tutto naturale in un'unica, in un unico ciak, quindi senza neanche fare tagli particolari, quindi va bene. E non sbaglia una parola da 15 anni, incredibile. Quindi è sempre quello l'inizio. È sempre quello lo slogan, sì. Fantastico. Sempre. Fantastico. Tutti bene. Natali, tutti Natali. Fedele. Benissimo. E dicevo, sicuramente avete diverse date da fare che avrete già programmato, quindi se le volete ricordare di quelle che vi ricordate, ditelo pure, che vediamo dove suonerete nei prossimi mesi, nei prossimi date. Allora, suoneremo la settimana prossima, abbiamo la doppia trasferta, quindi facciamo venerdì sera, che è l'11 aprile, suoneremo a Siena alla Corte dei Miracoli, a un festival che è dopo Tommy Test, esatto, assieme a rappresaglia tra band. Mentre invece sabato, sempre il 12 aprile, suoneremo alla Scaletta. Ok, grazie cavolo. Suoneremo alla Scaletta alla Spezia. Ok. E poi sempre a una serata punk rock, esatto. Punk rock mentality si chiama. Ok, assieme okay. Alla altre band. Sì. E poi invece il 26 di aprile suoniamo a Legend alla festa dei 20 anni dei Talco, sì. Assieme ai Disco Mostro. Sì, insieme ai Disco Mostro. Esatto, quella. E poi, da maggio in poi andranno annunciate. Per ora non sono ancora annunciate molte date, però ne abbiamo davvero tante. Ok, ok. Intanto queste... saremo impegnati così tutta estate. Ok, intanto queste comunque sono quelle che avete già tirato fuori, già ufficializzato. Esatto, va bene, ok. Quindi per chi fosse, si volesse vedere i Bad Frog, ha la possibilità in questi prossimi giorni, prossime settimane, e aspettando che tirino fuori effettivamente, diciamo, un po' tutto il tour. Allora, è passato praticamente un mesetto sostanzialmente a distanza dall'uscita del sesto album, come dicevamo prima, e qualche recensione, sia vostra o che avete ricevuto, che sia possa essere una critica e che possa essere qualche valore positivo, come sta andando comunque per adesso? Siamo contentissimi, soddisfattissimi. Al momento non potevamo sperare di meglio, esatto. Cioè, come risposta del pubblico, più che altro abbiamo buttato fuori il CD, il disco è uscito il 1 marzo e l'8 marzo abbiamo fatto release party e già tutti ne sapevano, quindi vuol dire che hanno fatto i compiti a casa, è stata una roba incredibile. Sì, direi che sì, effettivamente sì, con i 10 pezzi non tirarseli fuori belli carichi già per la settimana dopo, effettivamente se li sono studiati per bene, quindi buono. Super contenti, Dani. No, bene, mi fa un sacco piacere. E quindi io volevo fare un altro passo indietro, tornando appunto a richiamare un attimo la quando avete suonato un attimo con Infect, sicuramente ve l'hanno chiesto in tantissimi, però è una curiosità mia. Come è un po' stato suonare in un festival del genere e qualche tensione, qualche cosa che dici oddio, mi sto cagando sotto, come cazzo faccio? E poi effettivamente come un po' come è andata io ho cominciato prima di suonare proprio dalla tensione un attimo, non avevo ancora bevuto niente, a dire la verità, se posso raccontare la gag. Prego. Diretta, sono andato perché avevamo diciamo i backstage, sì. Sì, ecco, erano dei spogliatoi, sì, tipo dei, come si chiama, dei container, tipo, ok, e tipo in FX erano da soli, in Circo Jerks erano da soli, così invece noi eravamo assieme ai clown e ai, è vero, ai MEFs, ai MEFs, ok, eravamo tutti e tre nello stesso camerino, avevamo solo un bagno, ok, quindi io non so se era un po' di tensione o così, mi è venuto un po' da vomitare, quindi ho aperto la porta del bagno e c'era il batterista dei MEFs che stava cagando. E gli ho detto, cazzo, sorry, I get troppo pute. Don't worry. Sì, seduto sì. Sul water col cellulare, don't worry. E gli hai vomitato sulle scale. No, lì nella valigia. Guarda, adesso io non... Il giornale, mentre... No, sì, impossibile dire che non eravamo... Eravamo tesi, agitati, no? Molto agitati. Molto agitati, soprattutto da mesi, capito? Perché dura, questa tesi è durata almeno 6 mesi. Sì, ah, e non sì, potevamo dire niente. Da dicembre a maggio, quindi... È stata lunga, effettivamente. Stop. Poi dopo... No, è stato troppo bello. Poi, e soprattutto per la festa che si era formata anche di sotto... Tanti ai nostri amici della family e tutto che sono venuti a trovarci. No, dai. Hanno organizzato questa super party già da presto, quando suonavamo noi. Quindi, quando abbiamo iniziato noi a suonare, che era la prima eravamo la prima band, c'era già pieno. Ecco. Sì, sì, sì, sì, infatti mi ricordo. L'avevo visto anch'io in quell'occasione, suonando. Quindi, soprattutto perché era l'unico weekend di maggio che non è piovuto. È vero, ha fatto bel tempo. C'era caldo, quindi la gente c'era tutta. E anche come ci hanno trattato e tutto, ci hanno trattato veramente molto bene. Come fossimo dei musicisti, capito? Sì, sì. No, dai. E non è capito che eravamo quattro. Che... Quattro scappati di casa. Esatto. E ci stavano da mangiare anche, da bere. Ma quelle cose che uno dà per scontato, ma in realtà non è così alle volte. Abbiamo conosciuto anche in FX da vicino, quindi pensabile, ecco. È stata una cosa bellissima. Sì. Sono fermati a parlare e tutto, ecco. Sì, e noi no, siamo i backlog, andate via. No, dice, guarda, non mi interessa. No, dai, bello. Adesso... Sì. Sicuramente qua ce n'è tantissimo da parlare, però... Io che ero un po' stanco, ecco, però poi dopo... Comunque si è ripreso in me che non si dica. immagino. Lasciamo a pochi intenditori a capire quello che è possibilmente avesse fatto Fat Mike. Comunque, dicevo, fanno piacere questi retroscena. Sicuramente anche ora data ci sarebbe tantissimo da parlare, ma... E sono sempre qui collegato con i ragazzi dei Bad Frog, Paolino e Uge. Mi stanno deliziando di diversi retroscena. Poi magari un'altra volta che ci becchiamo di altri retroscena, e sono estremamente estremamente estremamente curioso. Mentre scusate, tornando intanto, mentre l'After Sex sta arrivando anche da queste parti. No, allora, ho notato rispetto magari agli altri, una domanda un attimo un pelo più seria, un attimo più, non costruita, però di impatto rispetto a quello che tiravate fuori precedentemente. Tutti i brani sono un po' superiori rispetto al minutaggio che avevate prima, quindi prima magari era quel minuto e mezzo di canzone bella tirata, adesso comunque il pezzo è bello tirato, comunque si è un po' allungato, quindi bene o male, visto che sono arrivati tutti sui due minuti e mezzo, come mai un attimo questa scelta, magari per avere più spazio di testo, magari di... Ma è saltato fuori Allora Uge, diciamo, era in forma in quel periodo lì, quando stavano scrivendo le canzoni nuove, quindi continuava a fare sti assoli qua di chitarra, quindi si è allungato un po'. Sì, quella pentatonica lì, no, che tanto però, ci parte piace. Quello, no, a parte quello, cioè, diciamo, l'abbiamo costruiti magari con un pochino più di cura, ecco, rispetto agli altri. C'è un pochettino più studio, secondo me. Secondo me si può anche sentire. No, no, quello si... a livello anche musicale, intendo. Quello sicuramente, quello sicuramente. Dici, non è magari il pezzo dritto per dritto che si veniva fatto una volta, un pelo più curato per effettivamente sistemare un attimo la cosa. Quindi a sto punto, dato che... Vai pure. Che intanto ci sono accorti che è il disco più lungo dei Bad Frog, nonostante è il disco più corto come numero di tracce, togliendo il primo demo, ecco. Che di solito facevano 12 canzoni. È vero. Quelli vecchi. È vero, c'è anche quello di mezzo. Però effettivamente sono quelle piccole cose che dici. Uno va un attimo, va a chiedere. Dobbiamo puntare di più tutto su quelle e non inserire magari dei pezzi tanto per inserirli. Giusto? Perché dici magari butti fuori la cagata e dici che magari non ci sta a dire tanto, dici vabbè, questa me la potevo anche evitare, perché tanto magari un pezzo che sai anche tu che non ti piace poco, magari è quello che viene ascoltato meno da fuori e magari quello che non farei manco una volta da live, esatto, che risulterebbe magari inutile o no, o fine se stesso, dai. Quindi ne abbiamo scelte 10 nelle 40 che avevamo fatto nuove, quindi abbiamo adesso usciranno altri dischi nel giro di un anno. Sì. No, non è vero. Vabbè, se no, alla fine, guarda, tante band hanno fatto una roba del genere. Adesso quello che mi viene, che magari cito, quello che cito un po' più spesso, magari non è il genere che affine al vostro, ma il System of a Down tantissimi anni fa tirano fuori il doppio album Hypnotize Mesmerize, quindi nello stesso anno a distanza di 6-8 mesi, quindi magari se avete 40 brani a disposizione, non è il nostro caso, Danilo. No, peccato, però sarebbe stato divertente, perché magari ogni 6 mesi c'è l'appuntamento fisso e... io direi che magari da settembre ricominciamo. No, sì. Adesso, da là. Godetevi un attimo. Mi piacerebbe fare un disco presto, ancora. Tra poco tempo. Vabbè. Anche perché è molto divertente, in realtà. Credo. A volte un po' stressante. Sì. È il nostro piccolo, comunque. Cioè, non è il nostro lavoro, quindi inserire anche tutto. Cioè, tutto il tempo. Alla fine 24 ore al giorno siamo qua. 7/7. Alla fine è una cosa che ci occupa un bel po' di tempo, sai. Tira via il lavoro, questo qua ci occupa tanto tempo. Comunque, se adesso abbiamo tante date, poi abbiamo le prove, e poi devi fare i pezzi, poi devi registrare, e poi vai a cambiare le corde, e poi. Cambia una volta all'anno. Ma non è vero! Tutti i giorni. Un prove cambiato. Ogni due concerti e parte. No, va bene, dai, adesso aspettiamo. Intanto godetevi questo disco che è piaciuto tanto, e quindi è giusto che suonate questo senza disdegnare magari chi vuole ascoltare anche qualche brano vecchio dai live, come spesso capita. E come dicevo, sono sostanzialmente in dirittura d'arrivo con l'intervista con ragazzi dei Bad Frog, Uge e Paolino, che sono stati qui. Io comincio un attimo con i saluti prima di farvi l'ultima domanda scarica barile, quindi io, ragazzi, vi ringrazio per la disponibilità di questa ora passata insieme, e speriamo di vederci presto magari in qualche vostro live oppure in qualche concerto che magari ci si becca insieme. Dicevo, ultima domanda scaricabarile, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Che oggi è uscito, no, scusa, che ieri è uscito il nostro nuovo video, il bidello. Tra l'altro è la canzone che andrà a chiudere la puntata, quindi è tutto, esatto. torna tutto. Qualcuno ha riconosciuto, attenzione. Esatto. Come? Non ho capito. C'è un piccolo easter egg, diciamo, mica tanto piccolo. Qualcuno ha riconosciuto il bidello? Lo scopriremo nei commenti qua sotto, dopo la pubblicità. No, no, io chiedo Venia, non ho ancora visto il video, però magari se è una persona che ho già visto, vi scriverò. Certo, sicuramente l'avrei già visto. No, va bene, dai, a parte questa, a parte l'uscita del, del nuovo disco, se c'è veramente qualcos'altro che magari che non vi ho chiesto che vorreste dire, liberissimi. Non c'è scusa. Quella roba a febbraio 2026, 31 febbraio, in acustico a grado da Ale della Cinta. Ha già fatto tutto lui con Joe Cape, tra l'altro, gira la voce. Tra l'altro, no, va bene. No, va bene, dai. Io come dicevo effettivamente sono addirittura d'arrivo che andrò a chiudere la puntata con l'altro vostro pezzo, il pezzo che è uscito ieri come singolo, come video. E volevamo ringraziare comunque tutti quelli che si è formato una come si dice, abbiamo formato una classe dei Faccino Rosi nel video, con un sacco di gente, le comparse che hanno voluto partecipare, due star del punk rock. E quindi volevamo salutarli e ringraziarli di questo. No, bene, bene, buono a sapersi. Ragazzi, io come dicevo vi ringrazio tanto e vi saluto perché vado effettivamente a chiudere la puntata. Ci vediamo alla prossima e vi concedo. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Forza. E come dicevo vado a chiudere la puntata. Buon punk rock a tutti.